Quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare i giochi, vedendo anche che insomma c'era una buona risposta di pubblico e di motivazioni. E allora abbiamo voluto, proprio in contemporanea con il ritorno di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, tentare anche la sortita Riace, anche perché così dal punto di vista ideale diamo comunque uno scossone a quello che per noi è un laboratorio di convivenza, andando anche in un luogo che è stato un esempio di convivenza per molti anni, insomma, con un'idea particolare di ripopolamento di borghi completamente morti e più o meno persi insomma in molte parti del sud Italia, ma non solo, che con l'apporto di migranti hanno comunque ripreso una parte economica e sociale rilevante. E visto che le intuizioni anche semplici certe volte sono le più geniali, noi pensiamo che Mimmo Lucano abbia avuto, in un momento anche in cui ci sono gli steccati, le discriminazioni e molti atti persecutori nei confronti dei migranti, avrebbe avuto una capacità lungimirante di pensare come far stare insieme la gente per bene e far anche ripartire l'economia di un paese più o meno, di un borgo più o meno che ormai stava scomparendo. Le novità di Bologna sono, prima di tutto, ci saranno 130 squadre, per cui noi faremo tornei di calcio, di pallavolo, di basket, di quidditch, di rugby e di ultimate frisbee. Faremo delle esibizioni poi di box, di muay thai e uno spettacolo di wrestling. Il programma poi abbiamo alcuni momenti insomma dedicati a dei continenti in particolare, ci sarà uno spettacolo africano di danza africana, ci sarà un momento a cura di Allargate il Cerchio che riguarda più insomma anche una parte sulla tammuriata e sulla pizzica da recuperare rispetto alle tradizioni del nostro paese, ci saranno numerosi DJ set per cui avremo anche una parte musicale abbastanza intensa e soprattutto avremo comunque la capacità di far venire più di 1000 persone, un po' da non solo da Bologna ma da tutta Italia e dal resto d'Europa, per cui questo è un po' il format già, come dire, consolidato della stagione bolognese, comunque del Festival dei Giochi Antirazzisti a Bologna, che si terrà dal 20 al 22 giugno al Centro Sportivo Bonori, e che avrà anche un'altra cosa: ci sarà una biciclettata che da Piacenza arriva ai Giochi Antirazzisti, che è una biciclettata insomma dall'Emilia a Gaza per la pace, per cui una biciclettata per mettere sotto riflettori ancora una volta quello che sta succedendo a Gaza o comunque nella realtà palestinese, per cercare di dare insomma un segnale di stop alla guerra. Di giochi antirazzisti c'è sempre più bisogno oggi in Italia, di manifestazioni come questa insomma che ricordano tante cose buone. Purtroppo sì, c'è più bisogno nel mondo, mi viene da dire, non solo in Italia, perché la situazione diventa sempre più drammatica, sembra che siano saltati quasi tutti gli schemi, per cui da un giorno all'altro uno decide di bombardare quell'altro perché gli sta antipatico o di deportare milioni e milioni di persone, per cui sì, c'è sempre più bisogno dei giochi, per quello che li facciamo anche a Riace. E a Riace, da questo punto di vista, abbiamo preservato anche una parte artistica un po' più robusta, per cui a Riace, fra i vari artisti che scenderanno in campo, ci sarà anche Daniele Silvestri.